America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana dove ieri sera è arrivato il nostro Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Oggi, fra poche ore, nella serata italiana, Paolo Gentiloni sarà alla Casa Bianca per un colloquio con il Presidente Donald Trump. Il primo incontro diretto fra i due, si erano sentiti al telefono, poi una conferenza stampa. Ma sentiamo Gentiloni che parla d'America in Parlamento lo scorso dicembre. Noi siamo pronti a collaborare con quello che è da sempre il nostro principale partner e alleato, gli Stati Uniti, forti nella difesa dei nostri principi, ma convinti sostenitori dell'Alleanza Atlantica. Ecco, avete sentito? Gentiloni parla di difesa dei nostri principi, sostenitori dell'Alleanza Atlantica. Ecco, devo dire che a dicembre questo non era necessariamente automatico, perché quello era il periodo in cui Donald Trump era in continuazione provocatorio nei confronti dell'Europa, provocatorio nei confronti della NATO. E dunque oggi alla Casa Bianca, nel dossier di Paolo Gentiloni, ci saranno naturalmente i temi classici, il G7 di Taormina di fine maggio, le sfide per l'ambiente su cui l'America tentenna, le sfide dell'immigrazione, il rischio protezionismo, il nostro ruolo nelle missioni peacekeeping nel mondo, ma ci saranno soprattutto il cambiamento politico di Donald Trump e un interesse comune Italia-Stati Uniti, cioè un rilancio aggressivo dell'economia europea. Devo dire che il viaggio del nostro Presidente del Consiglio in America non poteva capitare in un momento più propizio, perché nelle ultime settimane, come vi ho raccontato qui ad America 24, Donald Trump ha ribaltato il tavolo della sua politica estera, ha denunciato la Russia di Vladimir Putin, ha aperto un dialogo con la Cina di Xi Jinping, certo non un dialogo semplicissimo, però un dialogo in cui abbiamo visto che Trump è disposto a fare concessioni sul piano commerciale se la Cina aiuterà sul fronte della Corea del Nord. Soprattutto il presidente americano ha moderato la sua retorica aggressiva, ha messo da parte il suo consigliere, l'ideologo populista Stephen Bannon, e ha affermato la continuità di certi interessi americani e ha recuperato una posizione di leadership, come dire, più tradizionale degli Stati Uniti d'America. Certo, Trump cambia spesso, c'è da chiedersi continuerà lungo questa strada o no. Secondo me questo è un cambiamento, questa è una svolta più di medio-lungo termine. E Gentiloni diventa il primo leader europeo in arrivo qui a Washington dopo questa svolta di Trump. E toccherà a lui, a Gentiloni, convincere il presidente americano dell'importanza chiave del disegno europeo, l'importanza chiave per gli Stati Uniti. E questo, devo dire, è l'unico aspetto su cui Trump, nel ribaltare certe sue posizioni, ancora non si è espresso in modo diretto. Lo ha fatto tuttavia in modo indiretto. Sentiamo durante la conferenza stampa con Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO. It would be wonderful if NATO and our country could get along with Russia. Right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. Ecco, qui Trump è chiarissimo, dice sarebbe bellissimo se potessimo dialogare con la Russia, ma non stiamo andando affatto d'accordo, anzi credo che in questo momento siamo a livello più basso di sempre nei rapporti con Mosca. Ecco, questa è una dichiarazione chiave, simbolo del cambiamento di 180 gradi di Donald Trump. E devo dire che la rottura con Putin ha avuto un forte impatto sulla politica europea, ha portato confusione nei movimenti populisti che vedevano nella sintonia Putin Trump, che era fino a un paio di mesi fa evidente, vedevano una bandiera unitaria per la loro battaglia nazionalista. Ecco, però, con questo passaggio di Trump al confronto con Mosca, anche i populisti europei, un po' spiazzati, perché diciamolo, sono stati spiazzati da questo cambiamento di Trump, a un certo punto hanno dovuto scegliere. E fra il presidente americano e il leader russo, chi hanno scelto? In genere, almeno così ci dicono sondaggi, numerosi tweet che sono giunti anche a me quando ponevo la questione, hanno scelto Putin. E mi ha colpito un commento in uno dei tweet che ho ricevuto. Diceva: Trump si è arreso davanti all'establishment. Ecco, la verità è un'altra, la verità è che Trump ha capito che gli interessi americani di lungo termine sono allineati con un'Unione Europea solida. Sentiamo di nuovo dalla recente conferenza stampa con Stoltenberg. The Secretary General and I had a productive discussion about what more NATO can do in the fight against terrorism. I said it was obsolete. It's no longer obsolete. Ecco, Trump dice ha avuto un dialogo molto proficuo col segretario Stoltenberg sul ruolo della NATO nella lotta contro il terrorismo. In passato ho detto che la NATO era obsoleta. Ecco, devo dire che non è più obsoleta. Questo è uno dei cambiamenti chiave di Donald Trump. Donald Trump ascolta, ha ascoltato anche Xi Jinping, che ha detto, lo stesso Trump dice, mi ha aperto una nuova prospettiva sulle complicazioni, e qui cito Trump, sulle complicazioni col problema nordcoreano. Torno a dire, una volta messo da parte il populista nazionalista Bannon, Trump ha ascoltato ministri di peso come Jim Mattis alla difesa, Rex Tillerson agli esteri, HR McMaster al Consiglio per la sicurezza nazionale, sono profondi conoscitori degli interessi strategici americani. Ecco, ed è in questo contesto che il compito di Gentiloni appare più agevole, perché con Trump a questo punto tutto è cambiato. Ci sono naturalmente ancora delle differenze, per esempio sui contributi alle spese per la NATO. Sentiamo Trump che parla durante l'incontro con Angela Merkel. I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO, as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense. These nations must pay what they owe. Ecco, qui Trump è chiarissimo, dice negli ultimi anni gli alleati non hanno versato quanto dovuto alla NATO, è giusto che facciano la loro parte contribuendo ai costi per la difesa. Trump chiede un aumento al 2% del PIL, un aumento che è stato ratificato tra l'altro da tutti. Ecco, e questa ipotesi, devo dire, non è da scartare. Secondo me Gentiloni dovrebbe oggi esprimere un impegno chiaro per il rispetto degli obblighi NATO e anzi suggerire un'accelerazione previa approvazione europea per l'esclusione di queste spese dal computo dei nostri conti pubblici. Perché? Beh, perché queste spese sono investimenti, sono stimoli per l'economia, dovrebbero essere trattati in modo diverso dall'attuale. E le vie per farlo ci sono, e dunque Trump ascolterebbe con grande interesse una proposta italiana che introduca stimoli fiscali. Ed è proprio sul tema del rilancio dell'economia europea che Gentiloni e Trump dovrebbero trovarsi d'accordo. Occorre uno sforzo corale, ed è qui che Gentiloni può convincere Trump dell'importanza dell'Europa per gli Stati Uniti. Non solo, ma una crescita europea più forte aiuterà la crescita americana, continuerà ad allentare le tensioni populiste e nazionaliste in Europa. Dunque, su questo terreno i percorsi di Trump e di Gentiloni diventano convergenti. Una presa di posizione chiara, esplicita, di Trump sull'importanza di un'Europa unita, magari riformata, sarebbe una svolta in linea con i cambiamenti politici della sua amministrazione nelle ultime settimane, e devo dire che lo spazio perché Gentiloni e Trump possano ascoltarsi reciprocamente c'è di sicuro. Ci sarebbero gli altri approfondimenti dei da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che il dialogo è essenziale oggi nell'ufficio ovale tra Gentiloni e Trump. E dunque, The Badfinger, Why Don't We Talk? Ma perché non parliamo? If you knew the way you try a little harder. We've been together now for too long to part. Why don't we try? Why don't we try? Why don't we try? Just one more time. If you could understand the way it is, and we could talk about the difference between us. And who knows, baby, you might still agree. Why don't we talk about it? Why don't we talk about it? Why don't we talk about it? Why don't we talk? Just the one more time. Who knows, baby, my Da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento. A domani. Goodbye and get going.